piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ho deciso di smettere. Smettere di pensare di avere qualcosa di sbagliato e rimanere in attesa del momento in cui magicamente mi aggiusterò. Io non voglio figli e mi comporterò di conseguenza. Se mai cambierò idea, troverò una soluzione. Il mio valore non dipende dalla mia voglia di riprodurmi e la mia voglia di riprodurmi non è affare del resto del mondo e io non devo spiegazioni a nessuno. E per quelli che diranno, ma se facessero tutte così la razza umana si estinguerebbe. Non facciamo tutte così. E B, siamo troppi per il pianeta Terra al momento. Quindi al massimo la mia non voglia di avere figli è una splendida risposta genetica che ci permetterà di non far collassare la Terra. Lo avrete sentito da questa mattina perché ne hanno già parlato ampiamente altri colleghi su Radio 24. Il tema oggi all'attenzione delle cronache è un sondaggio SVG che certifica quella che è la posizione di questa ascoltatrice, che è un canale YouTube CMDRP, è scritto così, dove una signora fa il suo coming out di donna che non vuol fare figli, libera di non fare figli, non deve sentirsi né marginata né discriminata, non li vuol fare, il mondo è in sovrappopolazione, dobbiamo ringraziare le persone come lei. Invece chi si preoccupa, questo sondaggio veramente dice le ragioni per cui in Italia c'è una crescita vicina allo zero, gli italiani hanno incertezze, ma soprattutto la cosa che ha sconcertato tutti, come già avete sentito ampiamente commentato, che un italiano su sei dice ma se tornassi indietro non li farei figli, per un'infinità di ragioni. Ora questo è un tema che sta abbastanza dividendo il paese in questa sorta di ritorno all'antico, al tradizionale, ai bei tempi di una volta, alla sacralità della famiglia, cioè che questo lo considera una grande iattura. È molto preoccupato perché gli italiani non facciano più figli. Le soluzioni che vengono proposte molte volte sono delle ammirevoli idee ad incentivare la filiazione. Facciamo delle politiche alla famiglia, delle politiche sociali, asili nido, incentivi, diamo soldi, regaliamo vacanze. Insomma, si cerca di blandire l'italiano medio e convincerlo a fare figli. Noi siamo convinti, visto che se il problema deve essere affrontato in maniera drastica, la soluzione non possa essere l'incentivo, può essere piuttosto, debba essere una sorta di repressione degli elementi di disturbo al procreare. So che sarà duro, so che a molti questo potrà dispiacere, ma visto che vi ponete questo problema e visto che questo problema è irrisolubile, sento parlare del tasso basso di natalità in Italia, almeno dagli anni Ottanta, erano anni felici, edonistici, in cui tutti sembravano aver tutto a portata di mano e ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Quindi, secondo me, invece di fare chiacchiere, di andare in giro, di brandire i bambini come se fossero vessilli, di puntare il dito contro le persone che non vogliono fare figli, decidetevi se la linea del paese deve essere quella di un sano e robusto ritorno agli italiani che fanno figli, e non c'è altra soluzione che quello che vi stiamo per proporre. È un referendum molto dettagliato, molto ampio, per una proposta di un pacchetto di norme che secondo noi potrebbe risolvere il problema. Referendum per favorire la proliferazione italica. Gli italiani stanno smettendo di riprodursi perché pensano sempre più al loro piacere invece che sacrificarsi per creare una famiglia. L'allarme è stato lanciato da un sondaggio SVG per cui un italiano su sei, se potesse tornare indietro, non metterebbe più al mondo i propri figli. La situazione rischia di portarci alla sparizione della genia italica, lasciando spazio a quelli che vengono da fuori e fanno figli in abbondanza. Occorrono misure drastiche per fermare questa pericolosa deriva. Proponiamo un pacchetto di provvedimenti per invertire al più presto questa pericolosa tendenza. Non vogliamo più limitarci a dare inutili incentivi a procreare. È arrivato il momento di sanzionare chi fa scelte egoistiche ai danni della famiglia e degli italiani. Siete pronti? Quello che state per ascoltare so che a molti darà fastidio. Per molti sarà una odiosa imposizione che limiterà l'espressività, la libertà, la felicità degli italiani. Ma non voglio più sentir parlare di gente che si lamenta che gli italiani non fanno figli. L'unica maniera per convincere gli italiani a fare figli è quello che noi stiamo per proporre. Quindi cominciate a telefonare e dite come la pensate. Pensate che serva qualcosa di così doloroso, così grave, così pesante, così impositivo, così dispotico? Noi pensiamo che se bisogna risolvere il problema, ammesso che questo per qualcuno sia un problema, che ci sono tanti bambini fatti magari da stranieri, da persone che sono di passaggio nel nostro paese, e gli italiani hanno smesso di fare quei bei pupattoloni belli, grossocci, rosei e con i capelli neri che si mangiano gli spaghetti con le mani appena nati, la soluzione non può essere che questa. Chiamate l'800 24 0024 e diteci se condividete la nostra proposta di provvedimenti verso chi non vuole procreare e suggeriteci le vostre possibili integrazioni. 1. I cittadini italiani, sia maschi sia femmine, che non hanno generato figli in assenza di impedimenti di tipo clinico o fisiologico, dovranno versare all'erario un'imposta fissa di 10 euro a testa per ogni rapporto sessuale consumato a fini non procreativi. L'elusione di tale obbligo farà scattare sanzioni pari al 200% della cifra dovuta. Apposite squadre di controllori dell'Agenzia delle Entrate avranno diritto di verificare in qualsiasi modalità eventuali evasioni. 2. Sarà vietata ogni pratica sessuale solitaria gratuita. Chi desideri praticare l'onanismo dovrà richiedere all'Agenzia delle Entrate un apposito hand job counter, il guanto GPS dotato di contatore che addebiterà la tariffa di 1 euro a minuto per ogni sessione masturbatoria. 800 24 0024, questi sono soltanto i primi due punti di quello che noi pensiamo che sia giusto e corretto proporre, se veramente è una iattura, è un problema, è un'apocalisse quella che sta accadendo in Italia perché gli italiani non fanno più figli. Avete visto? Sembra paradossale, ma il paradosso è molte volte la soluzione di tanti problemi che sembrano irrisolubili. Visto che il problema è che gli italiani non fanno più figli, quindi non hanno più rapporti sessuali finalizzati alla procreazione, mettiamo una tassa, come sempre la soluzione è stata di tutte, una tassa sui rapporti fra persone non legate alla procreazione. Una tassa minima, abbiamo messo 10 euro a testa in una coppia, sono 20 euro, le casse dello Stato ne saranno avvantaggiate, almeno avremo anche un controllo statistico di quanto gli italiani si accoppiano, 20 euro per ogni atto sessuale. Naturalmente questo deve essere soggetto a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma mi sembra che sia rimasto soltanto questo da controllare, quindi tanto vale. Ci saranno degli appositi controllori dell'Agenzia delle Entrate che avranno diritto di verifica. Come? Ma non so, andando, appostandosi nelle farmacie quando vanno a comprare i preservativi, seguendoli, facendo irruzione negli alberghi, nelle case, avendo una rete di spionaggio nella servitù, negli addetti alla custodia degli oggetti, non so bene come, comunque si organizzeranno, siamo controllati con il nostro telefonino, avranno modo di controllare attraverso gli smartphone che ormai teniamo sempre accesi sul comodino e anche se sono spenti non cambia niente, di vedere quando le persone stanno consumando. Se non avranno versato la apposita tassa, sarà applicata una sanzione del 200%. Anche l'atto solitario, su cui non c'è nulla da censurare da un punto di vista generale, però deve essere tassato. Chi pensa di doversi indulgere in questa pratica dovrà andare all'Agenzia delle Entrate, si fa dare questo guanto. È un guanto, niente di che, esisterà la versione maschile e femminile per gli ambidestri, per i mancini e via dicendo. Con un GPS ti localizza, giustamente ti localizza. La privacy comunque è salvaguardata, mica ti filma. Però diciamo per ogni movimento ondulatorio della mano ci sarà una tariffa come quella per i telefonini, capito? Tanto al minuto, si paga tanto al minuto e anche questo è messo da parte. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei intanto su queste prime due norme, poi faremo ascoltare le altre due, si trova d'accordo? No, allora io diciamo ho un approccio completamente diverso che è anche un approccio scientifico. Sì. Dato che quando io feci la mia tesi di laurea la feci sui simbionti, che sono gli esseri che con cui noi viviamo. Allora, se noi immaginiamo la Terra, Gaia, come un essere vivente, Questa era la teoria di Casaleggio, lei è un casaleggiano. No, per carità, Gaia, questo mi, mi fa accapponare la pelle. Gaia perché scientificamente è una entità vivente, no? È Gaia. Sì. Allora, l'umanità, gli esseri umani che sono 5 miliardi, 6, 7, andremo verso i 10, sì, è assimilabile a un'infezione per un organismo vivente. Ah, visto dal punto di vista di Gaia, se lei la pensa come una dea madre, sì, va bene. Assolutamente sì, oppure come l'invasione delle cavallette. Perché? Perché noi... Vabbè, senta, Andrea, parlando di un'altra cosa, Andrea, ho capito, lei c'ha una sua teoria per cui crede nella dea madre terra che non vuole vedere gli umani. Ok, ma lei sarebbe d'accordo comunque di pagare il prezzo di questa sua visione? La sua è una visione rispettabile, però se lei rispetta questa visione va contro l'idea che gli italiani debbano procreare. Quindi lei sarebbe d'accordo di mettersi il guanto dell'Agenzia delle Entrate che le dà una tariffa oraria per ogni atto masturbatorio e di pagare una cifra di 10 euro per ogni atto non finalizzato alla procreazione? Questo è il prezzo della sua ideologia, lei sarebbe d'accordo? Tecnicamente sì, perché costerebbe molto di meno rispetto al danno che fa un essere umano. Vedi che mi viene, vedi che mi viene incontro. Si salverebbe la terra, la gente pagherebbe il prezzo per il mantenimento in vita della dea Gaia. Alessandro. Eccomi qua, buongiorno. Lei è d'accordo su queste due norme? Poi vediamo anche le altre. Ma guardi, io adesso stavo scendendo dalla macchina e ho sentito l'ultima frase. Però glielo dico subito, una proposta di legge, visto che tutti si lamentano che gli italiani non fanno più figli, invece che dare delle norme per incentivare la procreazione, che non sono servite a nulla, non gli importa niente degli asili e dello sgravio delle tasse e delle politiche della famiglia, non li vogliono proprio fare, preferiscono accoppiarsi finalizzandolo al piacere e non alla procreazione. Abbiamo detto, diamo allora una sanzione, visto che procuri un danno alla collettività, paghi ogni atto sessuale 10 euro a testa per i due che si accoppiano, pene e sanzioni grossissime se non si paga questa tassa, e un guantino che si prende all'Agenzia delle Entrate per gli atti solitari, a minutaggio va quello, è d'accordo? Molto divertente, ovviamente non sono d'accordo, però è una simpaticissima provocazione. Non è una provocazione, allora come lo risolviamo il problema? Gli incentivi, no, noi possiamo dire anche vi diamo una torta di compleanno ogni 5 minuti, vi leviamo tutte le tasse, non li vogliono fare i figli, quindi in una maniera... Ma il punto, scusi, è, secondo me è molto semplice. Paradossalmente le mamme italiane non vogliono fare, dico mamme perché... Le mamme, i figli si fanno in due, non è che se li fanno da sole le mamme. Però le mamme, secondo me, per la mia tesi... Hanno più colpa. Di più. Ma no colpa, hanno questo problema. Che la mamma italiana vuole dedicarsi moltissimo ai figli. Non accetta il trade-off tipico delle mamme invece... Ma dove l'ha letta questa storia? Tutte le persone che conosco lavorano, fanno figli, appunto, e sono felici. Ma non sono per niente felice, perché c'è una ricerca bellissima che dice che le più infelici di tutte quando fanno figli sono quelle che lavorano, perché si sentono maledettamente in colpa. Sono più felici le mamme che fanno i figli e stanno a casa. Ma lasci dire a loro. No, sì. C'è una ricerca, io non sto dicendo, è una ricerca bellissima che ho letto. Sì, però Alessandro, lei mi spiega perché metà dell'umanità, solo perché nasce senza pisello, deve essere costretta a stare a casa a pulire il culo a un bambino. Mi spieghi? Infatti non sono d'accordo, sto solo dicendo che le mamme italiane la pensano così, più delle mamme del nord Europa. Siccome quindi si sentono più in colpa delle altre, alla fine, tra farli sentirsi in colpa, andare a lavorare e far male tutte e due le cose, preferiscono non far più figli. Diciamo, è una sua lettura. Io direi che per abolire il senso di colpa, che è una delle cose più detestabili che affligge l'umanità, imponiamo questa legge che almeno non avranno sensi di colpa. Se chi non fa figli paga una tassa, non avrà sensi di colpa. Ogni botta 10 euro, dice io sto tranquillo, pago la mia tassa e mi prendo la libertà di agire come meglio voglio. Secondo me ha anche il grosso valore questo tipo di normativa, di togliere il senso di colpa. Mi sento in colpa perché non faccio il figlio, poi devo lavorare e via dicendo. Non lo vuoi fare? Benissimo, una tua scelta, libera, viva la libertà. Però paghi una tassa, visto che in realtà depauperi il codice genetico medio dell'italiano, ci sarà meno italiani e ci sarà più roba straniera. Evidentemente questo deve avere un prezzo. Ci fermiamo un istante, tra poco le altre due norme fondamentali. Melog. Chiamate l'800240024 e diteci se condividete la nostra proposta di provvedimenti verso chi non vuole procreare e suggeriteci le vostre possibili integrazioni. O no, i cittadini italiani, sia maschi sia femmine, che non hanno generato figli in assenza di impedimenti di tipo clinico o fisiologico, dovranno versare all'erario un'imposta fissa di 10 euro a testa per ogni rapporto sessuale consumato a fini non procreativi. L'elusione di tale obbligo farà scattare sanzioni pari al 200% della cifra dovuta. Apposite squadre di controllori dell'Agenzia delle Entrate avranno diritto di verificare in qualsiasi modalità eventuali evasioni. 2. Sarà vietata ogni pratica sessuale solitaria gratuita. Chi desideri praticare l'onanismo dovrà richiedere all'Agenzia delle Entrate un apposito Hand Job Counter, il guanto GPS dotato di contatore che addebiterà la tariffa di 1 euro a minuto per ogni sessione masturbatoria. Il pubblico sta reagendo con molta durezza. Dispiace che sia colpito il portafoglio nella propria libertà di espressione anche fisica, ma visto che il problema sembra importante, per me non è un problema, ma visto che come tale viene visto continuamente, sentito e riproposto, noi pensiamo che se proprio volete che gli italiani facciano figli, dovete mettere, puntare il dito, mettere le mani nelle loro tasche, sennò continueranno a fare quello che vogliono, degli incentivi non importerà loro nulla. Ho detto che ci sarebbero state altre due norme, ma prima di farvele ascoltare, vi facciamo ascoltare qualche ascoltatore, perché visto sono tantissimi, vogliono partecipare. Luca, buongiorno. Molto veloce. Nicoletti. Sì. Buongiorno, complimenti. Sì, io sarei disposto a pagare per un rapporto, per un coito non riproduttivo, oppure per la pratica onanistica. Sì, cioè, per tutti gli atti sessuali non finalizzati alla procreazione. Assolutamente, però vorrei, come per ogni tassa, qualcosa indietro, no? La famosa representation. Certo, sì. Taxation. Vorrei che una parte di questi soldi venissero devoluti a creare delle piccole oasi, ristoranti o luoghi di incontro per chi non vuole magari i ragazzini tra le scatole quando va a mangiare fuori o cose del genere. Sì. Potrebbe essere una buona idea. Ho capito, diciamo, qui lei dà un'accezione ideologica, dice non faccio figli perché proprio non voglio vedere i bambini attorno a me. Io pago la tassa, però dovete fare per favore delle aree protette nei ristoranti, in luoghi pubblici, dove chi ha bambini se ne stia da parte. Mi sembra però giusto e accettabile, uno deve tener conto anche di questo. E una precisa repulsione per il bimbo minchia mentre mangio, mentre sto insieme agli amici, chi se li fa e giustamente se li tiene. Quindi incentivare poi la costruzione, come sono le sale per fumatori, di sale per mantenitori di bambini in modo che gli altri mangino felici. Mi sembra accettabile. Antonino, buongiorno. Sì, buongiorno. È d'accordo lei? No, io non sono d'accordo. Io sono d'accordo con la signora che aveva parlato all'inizio, la registrazione che aveva mandato. Cioè lei non vuol pagare per gli atti sessuali non finalizzati? No, perché io penso che il problema grosso casomai è un altro. Smettiamola sta storia di difendere l'Italia, gli italiani, fare per gli italiani. Sì, però cominciamo a immaginarci di essere qualcosa di diverso. Ho capito, ma non slittiamo. Prossimamente saremo tutti insieme, basta. Sì, ma questa è una posizione ideologica. Io sono per la soluzione pratica di un problema. È molto concreta. Si apro, ma io sono anche d'accordo, sono anche d'accordo con lei. No. Sì, Antonino. Poi è divertente il fatto vabbè, che Antonino, buona giornata, buona giornata. Non voglio dissertazioni, voglio sapere, vi sta bene questa legge o non vi sta bene? Potete in qualche maniera integrarla? Eros, buongiorno. Buongiorno a lei. Il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che i bambini sono solo per far pagare le tasse. E che voto ho io di avere un bambino per fargli pagare le tasse? Non mi sembra una cosa creativa. Ma che vuol dire far pagare le tasse? Esattamente il contrario. Visto no, che qualcuno avverte il problema della mancanza di figli italiani. No. Questo guarda, è il tema. A parte il fatto che comunque sia i figli, vedo che la popolazione italiana sta. Vabbè, Raul, ancora una volta, scusate, non è questo il tema. Devo dirlo molto. Eros, scusate. Non è questo il tema. Voglio che parlate di questa legge. È questo oggi il binario su cui bisogna parlare. Le dissertazioni sul bene e sul male è un altro tema. Raul, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Io oltre ad essere d'accordo con queste due norme, proporrei anche di far pagare un'accisa sugli anticoncezionali. Sì, però lo sa perché mi sono su questo posto qualche dubbio? Perché l'anticoncezionale ha anche, diciamo, la funzione di salvaguardare dalle malattie sessualmente trasmettibili. Dovrebbero essere dati gratis, secondo me. Quindi se mettiamo una tassa in più, le persone che comunque devono in qualche maniera salvaguardare la propria salute ne sarebbero penalizzate. Io lascerei perdere questo punto. Lascerei l'anticoncezionale, almeno quello fisico, il profilattico. La sua funzione di strumento nasce come profilattico, preservativo. Preserva dal rischio di prendere malattie. Quella è la prima funzione. Poi l'uso anticoncezionale, diciamo, è un uso secondario. Quindi non tocchiamo questo tema. problema, se no allarghiamo. Mandiamo a questo punto le altre due norme, visto che diamo una completezza di proposta. 3. Le persone fisiologicamente in grado di procreare avranno l'obbligo di accoppiamento controllato finalizzato alla procreazione una volta all'anno. L'atto copulatorio dovrà avvenire in apposite strutture sanitarie in certificata presenza di periodo fecondo della donna e sotto osservazione di uno staff di sex navigator, appositamente formato a facilitare il felice esito della copula. 4. In linea di massima si propone inoltre di abolire la soporifera TV serale generalista, da sostituire con B-movie erotici stimolanti, talent show per coppie con figli. Invece delle previsioni del tempo, una rubrica che calcoli i periodi fecondi della donna, con consigli da parte di chef stellati su alimenti rinvigorenti per le virilità assopite. Abbiamo voluto allargare lo spettro, perché non basta soltanto sanzionare gli atti infecondi, bisogna che almeno una volta l'anno tutte le persone siano sottoposte a un atto perlomeno potenzialmente fecondo. Ci sono delle cliniche apposite, si faranno delle parti destinate all'atto procreatorio, le persone avranno, come la chiamata, le armi, come diciamo l'obbligo di leva. Invece che l'obbligo di leva sarebbe l'obbligo di stantuffo, mettiamolo così, ecco, che è la stessa cosa. Si va lì, si va nel momento in cui vieni chiamato, quando sai che la donna è nel momento della sua curva feconda. Ci saranno dei navigator che sorveglieranno che l'atto avvenga nei canoni prescritti, nella posizione più facilmente fecondante. Ci saranno, appunto, li chiamiamo i sex navigator, vogliamo. Diciamo, una volta l'anno ci devi provare, può andare bene, può andare male. Raul aveva però un'integrazione da fare alla sua proposta. Raul aveva detto di tassare gli anticoncezionali, ma un ulteriore elemento, diciamo, per migliorare questa proposta, qual è? Una cintura, diciamo, a due posti, che impedisse, una volta che due persone stanno facendo l'amore, all'uomo di ritrarsi appena prima dell'atto finale, esatto, in modo che potesse anche in questo modo qui evitare. Sì, però le dico, questo potrebbe essere interpretato come uno strumento di tortura, è un po' difficile, non può essere imposta, diciamo, le persone si mettono questa sorta di cinto, di questo cilicio che li tiene sarebbe anche difficile poi il movimento sussultorio, perché quando sei legato, che te fai? Puoi fare soltanto dei piccolissimi movimenti, limiterebbe anche, diciamo, l'efficacia dell'atto. Sembra più veramente uno strumento di tortura, io soprassederei su questo fatto, se no ci prendono in giro, dico state scherzando. Invece la proposta, mi sembra, nei termini l'abbiamo noi esposta, abbastanza seria e fattibile. Mauro, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Sì. Io sono d'accordo su questa proposta. L'unica eccezione la farei per quelli che fisicamente non possono avere figli. Ma certo, guardi... Allora i rapporti devono averli, perché sennò facciamo come la Chiesa Cattolica. No, guardi, l'abbiamo all'inizio stato detto, tutte le persone che non, in assenza di impedimenti di tipo clinico e fisiologico, lei viene col certificato sterile, impotenza coeundi, impotenza generandi, si fa fare un certificato, lei può fare quello che vuole. Siete bene. Le persone, a questo punto di vista c'è anche una compensazione per il problema fisiologico, le persone che non possono far figli. L'altra cosa che sarebbe un'ingiustizia grandissima, che io leverei l'immunità parlamentare, perché lo sappiamo che loro vanno con le segretarie, Non sono esenti, l'immunità parlamentare non c'è. Anche l'uomo politico, e si sa che nel corso della legislatura, proprio perché sta fuori sede, lontano da casa, si sbizzarrisce come vuole in un'infinità di rapporti non finalizzati alla procreazione. No, anzi, devono dare l'esempio, saranno i primi a mostrare il loro guanto, diciamo, collegato al GPS con l'Agenzia delle Entrate, o mostrare, diciamo, la loro tabella. Velocissimo, soltanto Luca, lei cosa ha detto? Buongiorno. Come vuole integrare? Io vorrei integrare la legge, a cui sono estremamente favorevole, però hanno la possibilità di avere una trattenuta di imposte sulle polluzioni notturne. Cioè, addebitandole, diciamo, al soggetto, oppure può toglierle dalle tasse, no? Deve pagare lo stesso. Però è involontaria. Ma quella è involontaria. È involontaria. Appunto, perché è involontaria, quindi che lo Stato mi cali le tasse. Ah, lei vorrebbe dedurre dalle tasse la polluzione notturna. Vabbè, si mette un polluzionometro, non è difficile. Uno si applica al polluzionometro che segna, ti devi dare un piccolo sgravio fiscale, in fondo è un atto di cui non si ha un piacere volontario, si ha soltanto è un'emissione involontaria. Diciamo, ogni emissione involontaria provoca... Certo, ci sarebbero... gli evasori fiscali che troverebbero dei sistemi per insomma, andrebbero prima di andare a dormire, si guardano 10 ore di YouPorn, così polluzionano la notte e scaricano le tasse un sacco di soldi. Bisogna vedere bene il meccanismo, però siamo sulla strada giusta. Ci fermiamo un istante. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Melog. Ma i bambini sono bellissimi, perché non li vuoi? Come, non ti piacciono i bambini? Dai che da grande cambiere idea li vorrei anche tu, ma che vita immagini senza figli? Bene, io risponderò subito a queste domande. Prima cosa, non a tutte piacciono i bambini. Seconda cosa, non tutte sono propense e portate ad essere madri. Terza cosa, io ho già delle ragioni fondate per cui non voglio avere dei figli e ci ho già ragionato da un po' di anni. Ma con questo voglio dire che comunque sono decisa, so cosa voglio e difficilmente cambio idea su delle cose perché sono una molto testarda. Con questo non voglio dire che tutte le donne che non vogliono avere figli. Questa è un'altra dichiarazione. Una donna che rivendica il suo diritto di non voler far figli è preso dal canale YouTube Viva le Boiate, si chiama così. Non so se è un termine scherzoso, è proprio il titolo del canale. Molte volte persone si lamentano, mettete le cose prese da YouTube e poi non ci citate. La colpa è mia, può accadere. Mi viene sempre scritto chiaramente sulla scaletta, sono cose messe su YouTube e chiaramente sono messe a disposizione. Molte volte io ometto di leggerle perché nella fretta diretta, colpa mia, la colpa è soltanto mia. Cercherò di farlo con dettaglio. Allora Alberto, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Niente, riprendendo il discorso fatto prima da un altro ascoltatore sulle persone che potrebbero avere problemi fisici proprio a riprodursi, ma che vorrebbero tanto, a parte il fatto che a loro non dovrebbe essere comminata nessuna multa. In assoluto, questo è già nel testo che abbiamo messo noi, in assenza di impedimenti tipo clinico-fisiologico. Quindi... Volevo dare un ulteriore aiuto a queste persone, nel senso che istituire un albo delle fattrici e un albo degli stalloni che possono sostituirsi nell'atto. Il termine è un po' brutto, detto così sì. Il termine è brutto. Lei dice, parte degli introiti dati da questa tassazione dovrebbe essere fatto a incentivare degli aiuti per le persone che non possono procreare, sia in aspetti terapeutici, assistenziali o anche in donatori, come dice lei, in donatori o di persone disposte a mettersi a disposizione. Insomma, creare un sistema di finanziamento e di sostentamento di tutti i sistemi di supporto a chi ha difficoltà a procreare. Mi sembra giustissimo, questo è giusto. Tommaso. Salve, buongiorno. Senta, secondo me tutte le pratiche che state proponendo, prima cosa è inattuabile a controllare e a vederle. E poi, secondo sempre il mio modesto parere, le donne non vogliono fare più figli perché non vogliono avere l'impegno della mamma. Perché fare la mamma, oggi come oggi, è molto, molto, molto difficile. Pensano solo a divertirsi e basta. Lavoro e divertimento. Quindi è colpa delle donne, solo delle donne. Ma colpa delle donne, sì, purtroppo è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Sì. La verità è solo questa, secondo il mio parere. Sì, sì. Non mi chiamate maschilista, perché io me la donna sono uno Dante Alighieri, d'accordo? Quindi per me la donna sta sul piedistallo. Però fare la mamma oggi come oggi è molto molto difficile, dare l'educazione ai figli. e la disgregazione della famiglia sì. ha portato alla disgregazione della società. Ma no, scusi, Tommaso, lei dovrebbe essere, se questa è la sua teoria, il perfetto me, dolce stil novo, capito? Benissimo. Devo dire, lei non può essere che d'accordo, è inutile fare esprimersi in maniera teorica o dire colpa di semplicemente applichiamo una tassa. La donna che non vuole fare figli pagherà 10 euro per ogni atto sessuale non finalizzato alla fecondità, come anche l'uomo. Questo potrebbe servire, secondo me. Inutile continuare a dare colpe e vedere di chi è la colpa. Applichiamo una legge, 10 euro per ogni rapporto non fecondo, e applicarsi questo strumentino che si prende all'Agenzia delle Entrate con un minutaggio ogni volta che uno compie degli atti autoerotici non finalizzati naturalmente alla procreazione, e va a, diciamo, arricchire un tesoretto che poi sarà ben usato per iniziative a favore di chi fa i figli invece. Francesco? Sì, buongiorno. Il suo punto di vista, sì. Sì, ecco, niente, il mio punto di vista, allora, condivido un punto solo, il quarto dei quattro, e non condivido tassare solo l'uomo, secondo me. No, l'uomo anche la donna, no, guardi, non è stato, forse non mi sono espresso bene. La tassa di 10 euro va sia per l'uomo che per la donna. Il totale di ogni atto reciproco non fecondo sono 20 euro. Diciamo, ogni botta fatta per non fare figli sono 20 euro. Ecco, diciamo così. Si paga metà per uno. Però tassare di più la donna che non si impegna verso nei confronti dell'uomo ogni volta l'uomo. Ma perché è sempre colpa della donna? Non mi fa capire, i figli si fanno in due. Cioè, è 50-50. Perché colpa? Anzi, la donna c'ha l'onere più grosso alla fine. Per 9 mesi deve tenerselo dentro. L'uomo una volta. Ma si entra in un circolo vizioso dove. Cioè. Viene più difficile fare figli, nel senso, se si scontrano tutti i problemi, bisognerebbe, se si vuole far esplodere l'Italia, diciamo, far proliferare la vita, bisognerebbe anche incentivarla. Sì, cioè, allora, noi abbiamo visto che in anni le politiche di incentivazione, di convincimento ideologico, devi farlo perché è un bene, devi farlo perché la famiglia è sacra, devi farlo perché i bambini sono belli, ti diamo asili nido, ti diamo riduzione delle tasse, non sono serviti a niente. Passiamo nell'unica maniera che si ha per ottenere un risultato, mettere le mani nelle tasche. Mettere le mani nelle tasche in questo caso significa tassare gli atti sessuali non fecondi, perché sono quelli il punto. E noi ci giriamo intorno, non è una questione ideologica, è una questione pratica, tecnica, idraulica, pneumatica. Gli italiani faranno l'amore, ma non lo fanno finalizzato alla procreazione. E noi li tassiamo. Alla fine decideranno, per non pagare le tasse ogni tanto, di far qualche figlio. Luca. Buongiorno, devo chiedere una cortesia, una domanda e una proposta. Allora, prima di tutto, le relazioni extraconiugali, se uno ha già figli e ha una relazione extraconiugale con una donna che non vuole averle, paga lui comunque. Certo, anche paga. Se ha già dato. E non è, l'ha già dato, non esiste. Se cominciamo l'ha già dato, allora anch'io ho dato. Bisogna dire, d'ora in poi, se vogliamo risolvere il problema, è drastico, mi rendo conto, è qualcosa di impositivo. No, ma io la provo. E infatti avrei una proposta che sarebbe, secondo me, integrativa. Non bisogna andare a far pagare con gente, bisogna fare come il canone Rai, bisogna metterlo in bolletta elettrica, quindi ognuno si trova dentro in bolletta elettrica il suo fatto che non ha procreato. Diciamo, una stima generale, diciamo. Esatto, come ha fatto col canone Rai, esattamente. Ma diciamo, noi decidiamo che la media nazionale sono, diciamo, il minimo sindacale, 4 atti sessuali al mese. Pagate intanto 40 euro a testa e va bene. Poi quelli che fate in più vi sanzioniamo, se vi becchiamo. Esatto. No, questa è una buona un canone, sì. Il canone atto sessuale, questo sì, e giustamente. Mi sembra che ci stiamo avvicinando a una proposta di risoluzione. Vediamo e aspettiamo, come sempre accaduto nei precedenti, qualche politico che faccia sua questa nostra proposta e la porti finalmente in Parlamento. Così non sentiremo più parlare di questa storia che gli italiani non vogliono far più figli. Alla prossima.